140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Teatro degli Arcimboldi, Milano. Un musical per celebrare il grande mito del cinema, il regno dei sogni per eccellenza. Christian De Sica sul palco con Cinecittà. Cinecittà veramente è la storia del paese, no? Ci sono passati tutti, ne ha viste di tutti i colori, dalle colossali ambizioni di cartapesta del ventennio fascista fino appunto a Maria De Filippi, ai reality, ai varietà televisive, alle pubblicità. Io credo quando lavorare l'ho fatto tutta Cinecittà, e quindi è un modo per raccontare il paese, quello che ho conosciuto, ma in chiave chiaramente sempre divertente, di commedia, pieno di musiche, di colori, di balli, e penso che sia una scelta giusta. È un peccato che adesso non si capisce bene che vogliono fare, un albergo, un parco a tema, un outlet, un garage. Speriamo di no, perché Cinecittà è una fabbrica di sogni e noi abbiamo bisogno di continuare a sognare in questo momento. E quindi se distruggono anche questo, ci distruggono una grande parte della nostra vita. E quindi è un peccato, un delitto, no? Noi siamo riusciti a esportare il lusso. Armani, Ferrari. Io quando andavo a Hollywood, veramente non c'era, non sapevo, questi erano dei tagliaboschi, non sapevano niente. Noi gli abbiamo insegnato come si mangia, come ci si veste, E pensa che scemi non gli abbiamo portato il cinema, che invece gli avrebbe potuto. Martin Scorsese, quando è venuto a casa mia, mi ha detto: sai che no, io mi sono proiettato tutto il cinema italiano, perché il neorealismo sono stati i primi anche a mettere le macchine prese in mezzo alla strada. Loro prima facevano i film dentro Hollywood, no? Come Cinecittà, nei teatri di posa. Quella rivoluzione lì, noi gli abbiamo insegnato anche come si faceva il cinema a loro. Quindi è proprio da pazzi, siamo dei matti. Noi italiani siamo geniali, ma siamo anche matti. Lei voleva fare da un po' questo Cinecittà, adesso però era il momento giusto. Perché? Perché penso che, per la verità, perché ho detto: se non lo faccio quest'anno, poi dopo ho 63 a 65, mi portano con le cruci. È faticoso fare il teatro, questo tipo di teatro qua. Fare una commedia a 8 personaggi dove prendi un tè. Io mi ricordo, feci degli Atti Unici tanti anni fa qui a Milano, una compagnia pazzesca, la regia era di Vito Molinari, erano degli Atti Unici di Georges Feydeau. Allora tu pensa che distribuzione: Lia Zoppelli mia mamma, Franco Scandurra mio padre, Paolo Poli il maggiordomo, Antonella Stenni la cameriera, Ambretta Colli mia moglie e io. Quindi è una roba meravigliosa. E lì si prendevano dei tè in salotto, era una musica a sentirli. Però era molto più facile. Questo è faticosissimo. E qui balli, canti, cose, preciti, fai il monologo e corri, fai. Insomma. Questo spettacolo è un ponte ideale verso il tuo prossimo ideale progetto cinematografico che stai studiando. Beh, io una vita che vorrei fare questa Porta del Cielo. Speriamo che Marco Cohen, il produttore, riesca a trovare i soldi per poterlo fare, perché è la storia della mia vita, è il film della mia vita, il sogno che ho nel cassetto. Adesso vediamo un po' di riuscire a realizzare. Ma sai, quando io propongo una frescaccia me la fanno far subito, se propongo una cosa seria allora ti guardo: ma tu sei matto, ma tu sei... Purtroppo è così. Io mi faccio un giro per Cinecittà e penso a quanti sono passati da qua. Cinecittà lei ripercorre anche un po' i suoi inizi. Immagino che questo possa essere di ispirazione anche ai giovani. Cosa dice a un giovane che vuole fare questo mestiere? Che ti deve piacere veramente tanto questo mestiere, che questo è un mestiere costruito sull'acqua, che se tu lo fai per la notorietà, per i soldi, è come andare al casinò, non funziona. Ti deve piacere moltissimo. Infatti quando ragazzi e ragazze dell'età dei miei figli mi dicono: vogliamo fare l'attore, io dico: ma ti piace veramente tanto? Perché ricordati che si parte in 3.000, si arriva in 3. Io quando ho detto a mio padre che volevo fare questo mestiere, mio padre mi ha detto: senti, tu prova un anno, ma se entro un anno non diventi un numero 1, ma sei un numero 2, un numero 3, non lo fare, perché è una vita da mendicanti. E non c'è cosa peggiore che salire e scendere le scale dei produttori. Di che mi fa fare la comparsata? Che c'è un po' di lavoro per me? Quindi, insomma, io voglio bene a tutti quelli che fanno il mio mestiere, anche perché sono figlio d'attore, quindi, insomma, so quello che si passa. Paolo Sorrentino, vittoria ai Golden Globe, nomination all'Oscar. Cosa ne pensa? È un momento importante per il cinema italiano. Questo dà lustro al nostro paese. A parte che c'è poi anche una persona di famiglia che è Carlo Verdone, che è mio cognato, che ci recita. E poi la mia migliore amica tra gli attori che è Sabrina Fenilli. Ed è una gran cosa, vuol dire ridare lustro, importanza internazionale al cinema italiano, che in questo momento ce n'ha proprio bisogno. E parla uno che fa il cinemino, che fa il cinema tout court, quello molto commerciale di Natale, che questo non vuol dire che il mio è un cinema da sottovalutare, perché è il cinema veramente popolare quello che faccio io, è veramente il cinema del popolo quello che faccio io, non quello dell'intelligenza, quindi non se lo fanno da di loro. Però te lo dice uno appunto che fa un cinema minore, è molto importante che i grandi autori come Sorrentino abbiano questo riscontro da parte dell'estero. Ma il cinema è bello tutto. Una volta ho chiesto a Federico Fellini, gli ho detto: senti Federico, mi piacerebbe tanto fare, ma perché non mi hai fatto fare Casanova? Io devo fare un film con lui, però non me l'ha fatto più fare, perché sono Sutherland. E allora lui mi ha risposto: ma che cosa dici? Il cinema è bello tutto, è bello quello porno, è bello quello mio, è bello quello di evasione, quello d'azione, quello che fai te. Il cinema è bello, è sempre più bello del mondo. Quando raccontare delle favole alle persone, farle sognare, sai che cosa diceva Mastroianni? Ci pagano per giocare. Quindi io ogni volta che apro la finestra dico: grazie Gesù che sei così fortunato. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.